Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. La padrona della locanda mi aveva fatto bollire l'acqua del tè e io scesi in sala da pranzo. Mi sedetti al tavolo accanto alla finestra, lo stesso a cui solevo sedermi negli anni passati, ma non ebbi l'impressione che il tempo si fosse fermato. Sentivo che la padrona della locanda trafficava in cucina. Con ogni probabilità, pensai, sta preparando da mangiare per il figlio che le torna da scuola verso l'una o le due, sta riscaldandogli un goulash o forse anche una minestra di verdura. In teoria comprendiamo gli esseri umani, ma in pratica non li sopportiamo, pensai. Il più delle volte stiamo con loro di malavoglia e sempre li trattiamo in base al nostro personale punto di vista. Eppure gli esseri umani, anziché basandoci sul nostro personale punto di vista, dovremmo trattarli e valutarli in base a ogni possibile punto di vista, pensai. I nostri rapporti con loro dovrebbero essere tali da permetterci di dire che il modo in cui li abbiamo trattati non è stato, per così dire, inficiato da alcun tipo di prevenzione. Ciò che non possiamo mai dire, perché in realtà siamo sempre prevenuti nei confronti di ogni essere umano. La padrona della locanda è stata un tempo malata di polmoni come me, pensai, e come me è riuscita, grazie alla sua voglia di vivere, a scacciare, a liquidare questa sua malattia polmonare. Per il rotto della cuffia, come si suol dire, è riuscita a ottenere la licenza elementare, pensai, per poi rilevare questa locanda da suo zio, che è stato condannato a 20 anni di galera perché precedentemente implicato in un caso di omicidio che ancora oggi non è stato del tutto chiarito. Si dice che insieme a un suo vicino di casa, lo zio avrebbe strangolato nella stanza accanto alla mia un rappresentante viennese di cosiddette chincaglierie che era sceso nella sua locanda e che quei due avrebbero commesso questo omicidio per venire in possesso della somma spaventosa che il suddetto rappresentante di commercio aveva a quanto pare portato con sé. La Dichtelmühle, questo è il nome della locanda, ha avuto dopo quel caso di omicidio quel che si dice una pessima fama. All'inizio, quando la gente seppe dell'omicidio, la Dichtelmühle subì un tracollo e rimase chiusa per più di 2 anni. Il tribunale assegnò poi la Dichtelmühle alla nipote dell'assassino, che era infatti suo zio, pensai, sicché la Dichtelmühle è stata riaperta e gestita dalla nipote, ma come ovvio dopo la riapertura non è più stata la stessa Dichtelmühle di prima dell'omicidio. Dello zio della padrona della locanda non si è più sentito parlare, ma è probabile, pensai, che come tutti gli assassini e condannati a 20 anni di galera, sia stato messo in libertà dopo soli 12 o 13 anni. Forse non è neanche più in vita, pensai. Ma in ogni caso non intendevo chiedere alla padrona della locanda informazioni su suo zio, non avendo nessuna voglia di risentire tutta la storia di quell'omicidio che lei mi aveva già raccontato un gran numero di volte. In verità, su mia richiesta. L'assassinio del rappresentante di commercio viennese aveva fatto ai suoi tempi grande scalpore e ogni giorno durante il processo i giornali ne parlavano abbondantemente e la Dichtelmühle, ormai chiusa da tempo, era stata per varie settimane invasa dai curiosi, benché nella Dichtelmühle non ci fosse niente di particolarmente interessante da vedere. Dall'epoca dell'omicidio in poi la Dichtelmühle è stata sempre chiamata trattoria dell'omicidio e in effetti tutti quelli che vogliono dire che stanno andando alla Dichtelmühle dicono che stanno andando alla trattoria dell'omicidio. Il termine si è diffuso. Quanto al processo, pensai, si è trattato di un processo indiziario. Non esistono prove, infatti, che l'omicidio sia stato commesso né dallo zio della padrona della locanda né dal suo complice. Un uomo la cui famiglia è pure precipitata nella sventura, come si suol dire, a causa di questa storia dell'omicidio. A lui, un cosiddetto stradino, Neanche il tribunale ha mai imputato un simile perfido omicidio in combutta con lo zio della padrona della locanda, che sempre e dovunque era stato definito come un uomo affabile, modesto e veramente serio, e tuttora è così definito come un uomo affabile, modesto e serio da tutti quelli che lo hanno conosciuto. Eppure i giurati si sono pronunciati per il massimo della pena da comminare non solo allo zio della padrona della locanda, ma anche a quell'altro che una volta faceva lo stradino, del quale ho saputo che nel frattempo è morto. Ed è morto, come sua moglie non si stancava di ripetere, per la disperazione di essere diventato la vittima innocente dell'odio che quei giurati nutrivano contro gli uomini in genere. I tribunali, anche dopo aver annientato per tutta la vita uomini innocenti e le loro famiglie, passano al successivo caso all'ordine del giorno, pensai, e i giurati, che sempre nel pronunciare le loro sentenze si lasciano trasportare da un umore momentaneo, oltre che da un odio sfrenato verso i loro simili, quand'anche abbiano compreso da tempo di aver commesso un crimine irreparabile nei confronti di esseri umani innocenti, all'idea di essere incorsi in un errore giudiziario, si rassegnano facilmente, in 448 si mettono l'anima in pace. La metà delle sentenze di corte d'assise, l'ho saputo per certo, si basa in effetti su tali errori giudiziari, pensai, e io sono convinto al 100% che di questo si sia trattato anche nel caso del cosiddetto processo Dichtelmühle, che si è concluso con un errore giudiziario commesso dai giurati. I cosiddetti tribunali distrettuali austriaci sono noti per il fatto che emettono ogni anno dozzine di sentenze basate su errori giudiziari commessi da giurati, e dunque per il fatto che hanno sulla coscienza dozzine di esseri umani innocenti che scontano nei nostri penitenziari una pena detentiva per lo più a vita, senza alcuna speranza di essere mai più, per così dire, riabilitati. In ogni caso, pensai, ci sono più innocenti che colpevoli nelle nostre prigioni e nei nostri penitenziari, perché di giudici senza scrupoli e di giurati che odiano gli esseri umani in genere e dunque i loro simili ce ne sono moltissimi, individui che per la propria infelicità e per la propria abiezione si vendicano su uomini che si trovano in loro balia a causa di una qualche sciagurata circostanza che li ha condotti davanti al tribunale. L'attività dei tribunali austriaci è diabolica, pensai, come dobbiamo constatare di continuo leggendo con attenzione i giornali. Ma certo ci appare assai più diabolica ancora quando veniamo a sapere che solo la minima parte dei loro crimini è portata alla luce e resa pubblica. Personalmente sono convinto che lo zio della padrona della locanda non meriti il marchio di assassino, o meglio di compare dell'assassino con cui è stato bollato 13 o 14 anni fa, pensai. Anche lo stradino lo ritengo in realtà innocente, ricordo ancora perfettamente i resoconti del processo. In fondo sarebbe stato giusto che venissero assolti entrambi, lo zio della padrona della locanda, il cosiddetto oste di Dichtel, non meno del suo vicino di casa che faceva lo stradino. E in questo senso si era infatti pronunciato nella sua arringa anche il pubblico ministero, ma i giurati avevano poi sentenziato a maggioranza che si era trattato di un perfido omicidio commesso da quei due di comune accordo, e avevano fatto rinchiudere sia l'oste di Dichtel sia lo stradino nel penitenziario di Garsten, pensai. E se nessuno ha il coraggio e la forza e il denaro per riaprire, come si dice, un simile atroce processo, persiste un errore giudiziario come quello che è stato commesso nel caso dell'oste di Dichtel e dello stradino. Persiste un'ingiustizia atroce ai danni di poveri innocenti con cui noi, ossia la società, non vogliamo più avere niente a che fare né ora né mai, a prescindere dal fatto che essi siano colpevoli o innocenti. Il processo Dichtelmühle, così è stato sempre chiamato, mi era venuto in mente e aveva occupato i miei pensieri per tutto il tempo in cui ero stato seduto al tavolo accanto alla finestra, perché tutto a un tratto avevo visto la fotografia fissata alla parete di fronte a me che raffigurava l'oste di Dichtel con il suo grembiule da lavoro e la pipa in bocca. E allora pensai che verosimilmente la padrona della locanda avesse appeso alla parete quella fotografia non solo in segno di gratitudine per il fatto che allo zio doveva la Dichtelmühle e dunque ciò che le dava da vivere, ma anche per evitare che il mugnaio di Dichtel, o meglio l'oste di Dichtel, fosse totalmente dimenticato, ma quasi tutti quelli che si sono occupati veramente e a fondo del processo Dichtel-Mühle sono morti da un pezzo, pensai. E ai clienti di oggi quella fotografia non dice proprio niente. Comunque, nella Dichtel-Mühle è rimasto senza dubbio un certo qual odore di delitto capitale, pensai, che attira la gente. Se qualcuno è sospettato, accusato e messo in prigione, a noi la cosa non dispiace affatto, pensai, la verità è questa. Né se un crimine viene scoperto, pensai, mentre guardavo la fotografia sulla parete di fronte. Quando esce dalla cucina glielo domando alla padrona della locanda che fine ha fatto suo zio, pensai. E prima mi dissi sì, glielo domando, poi mi dissi no, non glielo domando, glielo domando, non glielo domando. E mentre osservavo la fotografia dell'oste di Dichtel, continuavo a pensare, ora chiedo sue notizie alla padrona della locanda, non chiedo sue notizie alla padrona della locanda, e così via di seguito. All'improvviso un cosiddetto uomo semplice, che in realtà non è mai un uomo semplice, viene strappato dal suo ambiente e dall'oggi al domani rinchiuso in un penitenziario, pensai, dal quale, ammesso in un concesso che possa uscire, verrà fuori soltanto come un essere umano totalmente distrutto, un rottame della giustizia. Così mi dissi e non potevo non dirmelo. E la colpa di questo ricade, in definitiva, su tutta la società. Subito dopo la fine del processo, sui giornali era stata posta la questione se l'oste di Dichtel e lo stradino non fossero in realtà entrambi innocenti, e in questo senso si erano espressi alcuni commenti pubblicati in proposito, ma dopo 2 o 3 giorni del processo Dichtel-Mühle non si fece più parola. Leggendo tra le righe di questi commenti si poteva dedurre che i 2 uomini bollati e condannati come omicidi non potevano assolutamente aver commesso quell'omicidio, il quale omicidio deve essere dunque stato commesso da 1 o più terze persone, ma i giurati hanno ormai pronunciato la loro sentenza e il processo non è stato riaperto, pensai, e io, in effetti, di poche cose in vita mia mi sono occupato con più passione che degli aspetti del nostro mondo attinenti al diritto penale. Se seguiamo con attenzione questi aspetti del nostro mondo, il che significa della nostra società, ci capita ogni giorno di vederne, come si suol dire, di tutti i colori. Quando la padrona della locanda, uscita dalla cucina pressoché stremata, si sedette al mio tavolo, aveva fatto il bucato e rimase per un po' di tempo con il viso alterato dai vapori della cucina, io mi decisi a domandarle che cosa ne fosse stato di suo zio, l'oste di Dichtel, non ponendo però la domanda in maniera grossolana, ma anzi con estrema circospezione. Suo zio era andato a Hirschbach dal fratello, disse lei. Hirschbach era un paesino al confine con la Cecoslovacchia. Lei stessa c'era stata una volta soltanto, molti anni addietro però. Suo figlio a quell'epoca aveva solo 3 anni. Il suo intento era stato di mostrare il bambino allo zio nella speranza che questi l'aiutasse in un momento di grande bisogno, le desse del denaro dunque. Di denaro, secondo lei, ne aveva ancora molto. Solo a questo scopo lei aveva affrontato con il figlio gli strapazzi di un simile viaggio fino a Hirschbach, al confine cecoslovacco. 6 mesi soltanto erano passati dalla morte di suo marito, il padre del suo bambino, che a dispetto di tante avversità si era sviluppato benissimo. Ma suo zio non l'aveva ricevuta. Si era fatto negare dal fratello e non era comparso affatto, tanto che lei, stufa di star lì ad aspettarlo col bambino, era ripartita per Vancam con le tasche vuote. «Come si può essere così senza cuore?» disse, aggiungendo però che suo zio lo comprendeva. «Quell'uomo non voleva più avere niente a che fare con la Dichtel-Mühle e con Vancam», disse. «Non c'è nessuno, dissi io, che sia stato in prigione per un tempo più o meno lungo e che una volta rimesso in libertà abbia voglia di tornare nel suo luogo di origine». La padrona della locanda aveva sperato che suo zio, o almeno l'altro zio, quello che lei chiamava lo zio di Hirschbach, l'aiutasse a tirare avanti, ma non aveva ottenuto questo aiuto. Non aveva ottenuto proprio nulla da quei 2 che erano ancora e sono tuttora gli ultimi suoi parenti, di cui lei peraltro sapeva che, pur vivendo poveramente come a Hirschbach e più che naturale, disponevano ancora di un notevole patrimonio, e la padrona della locanda, pur senza indicare una cifra esatta, disse pressappoco qual era, secondo lei, l'entità di questo patrimonio dei suoi due zii. Una somma di commovente esiguità, pensai, che a lei però, la padrona della locanda, doveva apparire veramente elevatissima se da essa si riprometteva un aiuto così decisivo, pensai. I vecchi sono avari anche quando ormai non hanno più bisogno di nulla. Anzi, più diventano vecchi, più diventano avari. Non c'è pericolo che mollino neanche le briciole di quello che hanno. E se anche i loro discendenti morissero di fame davanti ai loro occhi, i vecchi non si scomporrebbero. La padrona della locanda si mise poi a raccontare del suo viaggio a Hirschbach, come era stato scomodo raggiungere Hirschbach da Wanham. 3 volte aveva dovuto cambiare treno col suo bambino ammalato, e quella visita a Hirschbach non soltanto non le aveva procurato un soldo, ma le aveva fatto venire un mal di gola, un grave mal di gola, che così lei era durato per vari mesi. Dopo la visita a Hirschbach aveva pensato di staccare dalla parete la fotografia dello zio, ma poi quella fotografia non l'aveva tolta dalla parete per via dei clienti, che certo le avrebbero domandato come mai avesse staccato dalla parete quella fotografia, e lei non aveva voglia di chiarire a tutti per l'ennesima volta i dettagli di quella vicenda. I clienti ad un tratto avrebbero di nuovo voluto sapere tutto del processo, disse, e lei non intendeva lasciarsi incastrare. Ma il fatto era che lei, prima del viaggio a Hirschbach, aveva amato lo zio raffigurato nella fotografia, mentre dopo essere tornata da Hirschbach lo aveva sempre e soltanto odiato. Nei confronti di suo zio, disse, lei aveva dimostrato una grandissima comprensione, mentre lui con lei non era stato comprensivo affatto. In definitiva era lei che, malgrado le più grandi avversità, aveva riaperto la Dichtelmühle come locanda, disse, aveva impedito che la casa andasse in rovina e si era rifiutata di venderla, benché non le fossero mancate le occasioni di farlo. Suo marito non aveva mai avuto interesse per la gestione della locanda, aggiunse. Lei lo aveva conosciuto in una grande baracca che era stata allestita per il carnevale di Regau, dove si era recata con l'intento di comprare per la sua locanda un paio di vecchie sedie che i proprietari di una locanda di Regau avevano scartato. Subito aveva visto che c'era lì un buon uomo che sedeva in un canto tutto solo e non conosceva nessuno. Si era seduta al suo tavolo e lo aveva portato con sé a Wanham, dove lui poi aveva subito deciso di fermarsi. Ma oste, disse, non è mai diventato. Qui tutte le donne maritate, la padrona della locanda usò proprio il termine donne maritate, in effetti tutte le donne maritate, disse, dovevano sempre aspettarsi che i loro uomini precipitassero nella taglierina o che quantomeno la taglierina trinciasse loro una mano o varie dita. In fondo succedeva tutti i giorni, disse, che gli uomini si ferissero alle taglierine e in realtà nella zona si aggiravano solo uomini mutilati dalle taglierine. In questa zona gli uomini lavorano al 90% nella cartiera, disse, e per i figli non hanno altro in mente che mandarli anch'essi a lavorare nella cartiera, disse. È un meccanismo che si ripete da generazioni, pensai. E se la cartiera cessa l'attività, disse, qui restano tutti a spasso. Era solo questione di tempo, di pochissimo tempo, sostenne, e poi la cartiera avrebbe chiuso i battenti. Tutto lo lasciava prevedere. Essendo la cartiera un'azienda statale, in breve tempo avrebbe dovuto chiudere, perché come tutte le altre aziende statali si era indebitata per diversi miliardi. In questa zona tutto è stato costruito in base alla cartiera e se chiude la cartiera va in malora tutto. Anche lei sarebbe finita malissimo, perché i suoi clienti erano al 90% operai della cartiera, disse. Almeno gli operai della cartiera spendono i loro soldi, sostenne, al contrario dei boscaioli che non spendono mai niente. E quanto ai contadini, peraltro pochissimi, le capitava di vederli al massimo 1 o 2 volte all'anno. Quelli dall'epoca del processo evitavano la Dichtelmühle, non ci mettevano più piede se non per fare domande sgradevoli. Così lei. Già da tempo non si dava più pensiero di un simile avvenire senza via di uscita. Quel che sarebbe capitato Non le importava più, in fondo suo figlio aveva 12 anni e da queste parti, disse, da che mondo è mondo, i ragazzi a 14 anni sono già capaci di reggersi sulle proprie gambe. A me l'avvenire non interessa affatto, disse. Il signor Wertheimer, così disse, era sempre stato per lei un graditissimo cliente, ma i signori distinti come lui non sapevano niente della vita che faceva lei. Non sapevano che cosa significhi portare avanti una locanda come la Dichtelmühle. Quelli, i signori distinti, non parlavano d'altro che di questioni per lei incomprensibili e, pur non avendo niente di cui preoccuparsi, passavano tutto il loro tempo a rimuginare su come spendere i loro soldi e il loro tempo. Lei stessa di tempo e di soldi non ne aveva mai avuti abbastanza e neanche una volta si era sentita infelice. Al contrario di quelli da lei apostrofati come signori distinti, che di tempo e di soldi ne avevano sempre avuti abbastanza e che parlavano continuamente della propria infelicità. Le era del tutto incomprensibile il fatto che Wertheimer, parlando con lei, dicesse di continuo di essere un uomo infelice. Spesso era rimasto a sedere fino a 1 di notte, lamentandosi con lei nella sala della locanda, e lei si era impietosita di lui, come disse, e lo aveva fatto salire nella propria camera perché nel cuore della notte lui a Traich non ci voleva tornare. Che le persone come il signor Wertheimer, disse, avevano tutte le possibilità di essere felici, ma non sfruttavano mai queste loro possibilità. Una casa così signorile in cui abita un uomo tanto infelice, disse. In fondo il suicidio di Wertheimer non era stato per lei una sorpresa, ma una cosa non avrebbe dovuto farla, disse. Non si sarebbe dovuto impiccare a un albero proprio a Zitzers davanti alla casa della sorella. Questo lei non poteva perdonarglielo. Il modo in cui diceva il signor Wertheimer era nello stesso tempo commovente e disgustoso. Una volta veramente sono andata da lui per chiedergli dei soldi, ma lui non me ne ha dati, disse. Mi serviva urgentemente un credito per comprare un nuovo frigorifero, ma i ricchi sono ben abbottonati, disse, quando si tratta di soldi. Eppure Wertheimer i suoi milioni li aveva sempre e soltanto gettati dalla finestra. Quanto a me, riteneva che fossi, esattamente come Wertheimer, un uomo benestante, o meglio ricco e disumano, dal momento che disse di punto in bianco che i benestanti e i ricchi sono tutti disumani. E lei era per caso umana? Le domandai allora. Ma a questa domanda non ebbi risposta. Si alzò in piedi e andò incontro agli autisti del camion della birra, che si erano fermati davanti alla locanda con il loro grande autocarro. Io seguitavo a rimuginare su ciò che aveva detto la padrona della locanda. Per questo non mi alzai subito in piedi per recarmi a Traich, e anzi rimasi seduto in modo da poter osservare gli autisti del camion della birra, e soprattutto la padrona della locanda, la quale senza dubbio aveva con gli autisti del camion della birra un rapporto più intimo di quello che aveva con tutte le altre persone che frequentavano la sua locanda. Gli autisti dei camion della birra mi hanno affascinato fin dalla primissima infanzia, e dunque anche quel giorno mi affascinò la maniera in cui scaricarono le botti di birra e nell'atrio le fecero rotolare davanti a sé, e come spillarono la prima botte davanti alla padrona della locanda per poi sedersi con lei al tavolo accanto al mio. Da bambino avrei voluto diventare ed essere autista di un camion della birra. Gli autisti di quei camion li ammiravo, pensai, non riuscivo a saziarmi della loro vista. Mentre ero seduto al tavolo accanto a loro e osservavo gli autisti del camion della birra, fui subito riassalito da quella sensazione infantile, ma in essa non mi crogiolai a lungo, anzi mi alzai in piedi e uscii dalla Dichtelmühle per recarmi a Traich, non senza aver prima detto alla padrona della locanda che sarei tornato verso sera, o forse anche prima, dipendeva da tante cose, e che avrei molto apprezzato uno spuntino notturno. Mentre stavo per uscire, udii ancora gli autisti del camion della birra domandare alla padrona della locanda chi io fossi, e siccome ho un udito eccezionalmente fine, sentii anche che lei bisbigliava il mio nome e aggiungeva che ero un amico di Wertheimer, quel pazzo che si era tolto la vita in Svizzera. In fondo, pensai mentre mi allontanavo, anziché andare subito a Trai, preferirei star seduto qui, nella sala della locanda, a sentire ciò che si dicono gli autisti del camion della birra e la padrona della locanda, ma soprattutto preferirei sedermi al tavolo di questi camionisti e bere con loro un bicchiere di birra. Continuamente ci figuriamo di sederci ad un tavolo con gli uomini dai quali ci sentiamo attratti da una vita intera, che sono questi, appunto, i cosiddetti uomini semplici, che naturalmente ci figuriamo diversissimi da come sono in realtà, perché se ci capita davvero di sederci a un tavolo con loro, ci rendiamo conto che non sono come li abbiamo immaginati e che non abbiamo con loro quelle cose in comune che ci eravamo persuasi di avere. Anzi, al loro tavolo e in mezzo a loro ci becchiamo soltanto la temuta botta in testa che, come logico, avvertiamo non appena ci siamo seduti al loro tavolo e ci siamo illusi di avere con loro qualche cosa in comune e abbiamo pensato di poterci sedere impunemente, sia pure per pochissimo tempo, al loro tavolo, mentre non esiste, pensai, errore più grande. Per tutta la vita abbiamo nostalgia di uomini come questi. Desideriamo avvicinarli e quando ci rendiamo conto di quel che proviamo nei loro confronti, essi ci respingono e in verità lo fanno con la massima spietatezza. Wertheimer ha descritto spesso come la sua esigenza di stare insieme e di sentirsi unito ai cosiddetti uomini semplici e dunque al cosiddetto popolo sia rimasta inappagata. E molto spesso ha raccontato di essere entrato nella Dichtenmühle con l'intento di sedersi al tavolo del popolo per poi doversi rendere conto fin dal primo tentativo in questo senso che sarebbe un errore pensare che gente come lui, Wertheimer o anche come me possa sedersi al tavolo del popolo come se niente fosse. Assai per tempo gli uomini come noi si sono esclusi dal tavolo del popolo, così diceva, ricordo. Il fatto è che sono già stati partoriti a un tavolo completamente diverso, diceva, non certo al tavolo del popolo. Ma ovviamente gli uomini come noi, diceva, sentono di continuo una grande attrazione verso il tavolo del popolo. Eppure al tavolo del popolo non c'è proprio niente che ci possa interessare, così diceva, ricordo. Essere uno che esiste come autista di un camion di birra, pensai, e giorno dopo giorno caricare e scaricare le botti di birra e farle rotolare negli ingressi delle osterie dell'Alta Austria, e sempre sedersi a un tavolo con tutte quelle donne sfasciate che gestiscono locande e osterie, e ogni giorno buttarsi nel letto stanco, morto, per 30 o 40 anni di seguito. Trassi un respiro profondo e affrettai il passo verso Trai.